Siete pronti per la parola di Dio oggi? Allora la mia voce può essere fioca, ma la parola di Dio è sempre potente. Amen. Quindi anche se la mia voce è fioca, la sua parola è potente. E prima di salire sono andato un attimino da Stefano, e Stefano ha sentito la mia voce, non poteva fare a meno che pregare, perché sappiamo la sua storia, no? Ed è meraviglioso riconoscere che Dio guarisce nel nostro mezzo, perché la voce di Stefano non è quella che era, e sicuramente la voce di Stefano, se c'è oggi, è per l'intervento divino. E noi oggi qui, questa mattina, vogliamo dichiarare che abbiamo un Dio che guarisce. Amen. Ed è curioso, no, che il Signore metteva nel mio cuore di predicare sulla guarigione, e poi sono stato con raffreddore, c'è stato il raffreddore, tutti noi abbiamo patito un po' il raffreddore in questo periodo, il calo della voce, c'è stata una processionaria che si è intrufolata nei miei vestiti e quindi ha fatto danno sulla mia cute, però è bello poter sapere con certezza che noi crediamo in un Dio che guarisce oggi. Amen. E Lui è il guaritore, e non è solo la storia di Stefano, ma è la storia, vedo Irma, due file più avanti di lui, è la storia di Milena che è qui con noi, è la storia di tanti di noi, quanti possono alzare la loro mano e dire: il Signore mi ha guarito nel corpo. Amen. Vedete le mani? Alzatele, bellissimo. Alleluia, Dio guarisce. Dio guarisce i corpi, e Lui vuole guarire questa mattina. Amen. Vuoi ricevere la sua guarigione? Perché Lui è pronto a guarire. Io voglio leggere una storia che parla proprio... Puoi abbassare un po' il monitor perché tende a fischiare. Grazie però, perché mi aiuta a sentirmi. Una storia che troviamo in Marco 1, quindi proprio in apertura all'Evangelo. C'è questa storia dal versetto 35, e sapete chi ha una voce bellissima in mezzo a noi? Si trova proprio in prima fila, ed è Andrea. Quindi io voglio invitare Andrea a venire avanti e a darmi una mano, perché lui ha una bellissima voce, dovreste sentirla. E quindi predicheremo insieme questa mattina, vabbè, l'ho deciso appena adesso. E pregheremo per la mia schiena anche. Ok, benissimo. Allora, se vuoi leggere questo brano, e poi pregheremo anche per la schiena di Andrea. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto. E là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo. E trovatelo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, e gli disse: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Grazie. Preghiamo un attimo. Grazie Gesù per Andrea, noi preghiamo la guarigione per la sua schiena in questo momento, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. Sii guarito. Il brano che abbiamo letto, l'ho voluto leggere qualche verso prima, qualche verso dopo, anche se ci concentreremo sul verso specifico 40, il verso 40 sarà oggetto di nostra attenzione, però l'ho voluto leggere prima. Prima di tutto perché c'è scritto che Gesù andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe. E quando ho letto questo ho pensato: Gesù va in chiesa. Gesù va in chiesa. Quando è venuto su questa terra non ha mancato di andare in chiesa e di essere parte attiva nella chiesa. Non andava come visitatore, non andava come ospite, non andava sporadicamente, era un assiduo partecipatore degli incontri congregazionali di chiesa nella sinagoga e lì era attivo nella predicazione. Viviamo un anno dove il tema l'abbiamo sentito e risentito, come te. E io voglio elogiarti e ringraziarti perché il tuo essere qui è già un seguire l'esempio di Cristo. Il tuo essere nella casa del Signore, il posto che Dio ha preposto, quale appuntamento dove i credenti, i nati di nuovo, si riuniscono insieme per adorare il suo nome, per cercarlo, per aprire la Bibbia, meditare sulla sua parola, questa tua scelta ti rende più simile a Cristo e ti allinea alla sua volontà. E quando ti allinei alla volontà di Dio, lì si sbloccano benedizioni. Quindi io so per certo che il tuo essere qui questa mattina sblocca delle benedizioni per la tua vita. Forse non lo vedrai oggi, istantaneamente, in questo luogo, in questo momento, ma Dio premia sempre quando i suoi ascoltano la sua voce e fanno la sua volontà. Quindi grazie che ci sei ed è importante che ci siamo in maniera attiva. Ho voluto far leggere ad Andrea un po' il contesto anche per comprendere quanto il divulgare della parola del lebbroso guarito, che era stato appunto guarito, è stato per Gesù una cosa da evitare perché tutti lo cercavano. Infatti, sapete qual è il racconto che segue questo qui? È il racconto dei quattro amici che calano il paralitico dal tetto. E vi ricordate, in quella casa non si riusciva ad entrare perché tutta la casa era piena gremita di persone e tutta la soglia era piena e questi amici del paralitico non sapevano come presentare il loro amico davanti a Gesù perché c'era una folla immensa e la folla correva a Gesù perché Gesù che faceva? Fra le tante cose guariva. E lo stesso vale oggi. Lui non parla solamente, lui non rivela solo il suo amore in tante maniere diverse, lui non ci dà maggiore conoscenza, non ci dà solo istruzioni, non ci dà regole da seguire, lui è attivo. Dio è attivo e l'azione di Dio è l'amore in ogni direzione, è un'espressione dell'amore di Dio, è la guarigione. E la cosa bella, quindi andiamo al verso sul quale vorrei soffermarmi, è che il lebbroso va da Gesù con fede. Lo leggiamo perché si butta in ginocchio, che è già di per sé un segno di riverenza e di riconoscenza che davanti a sé non c'è un uomo qualunque. Si butta in ginocchio perché riconosce che Gesù è Dio, perché chi si inginocchia lo fa nel momento in cui si rende conto che la sua condizione è umile rispetto alla persona con la quale sta interloquendo. E quindi il lebbroso si butta a terra riconoscendo con chi ha a che fare, si inginocchia davanti a lui e poi dice: se vuoi, tu puoi. Tu, Gesù, puoi. La fede dice: tu puoi. Quando tu hai piena consapevolezza del Dio dei miracoli, del Dio guaritore, non ti rivolgi a Lui se puoi, perché se puoi è mancanza di fede, è mettere in dubbio il fatto che Lui sia l'Onnipotente, che può ogni cosa. Infatti il lebbroso sa che Gesù può, è solo una questione di volere, quindi dice: se tu puoi, se tu vuoi, tu puoi, ma tu puoi è assodato. La fede dice: tu puoi. E io voglio incoraggiarti ad avere fede questa mattina, a non andare a Dio ancora con i dubbi, ancora con le incertezze, ancora con i punti interrogativi, ancora a chiederti se Lui può, se è capace, se ha la forza a sufficienza. Lui può. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, qualsiasi sia la malattia. Qui abbiamo a che fare con un lebbroso. Era una malattia incurabile e degenerativa, era una malattia terribile che arrivava a intaccare il sistema nervoso e i tessuti al punto tale che le dita cadevano, gli arti potevano cadere, letteralmente queste erano persone che avevano questa malattia che li li costringeva anche a distanziarsi da ogni altra persona, perché era una malattia altamente contagiosa e quindi la loro vita era completamente stravolta a causa della malattia. Non c'era solo il dolore fisico, c'era il dolore dell'isolamento, dell'essere distanziati, non potevano avere a che fare con i loro cari, con i loro familiari, vivevano insieme questi lebbrosi e non potevano vivere neanche la vita di fede, la vita religiosa, quello che abbiamo detto, no, di Gesù che va in sinagoga. Questi uomini non potevano andare nella sinagoga, era vietato loro avvicinarsi alla sinagoga, perché erano ritenuti impuri nel senso anche spirituale del termine. E in questa condizione questo lebbroso dice: Dio, tu puoi cambiare ogni cosa. Io non so cosa stai vivendo, cosa stai attraversando, ma ho un incoraggiamento da darti questa mattina che viene direttamente da Dio. Abbi fede in me. Qualsiasi sia la tua condizione, abbi fede in me. Forse sei da tanti anni nella fede, eppure questa fede è rimasta talmente immatura che davanti a ogni nuova circostanza avversa tutto si rimette in gioco e davanti a te si ripresentano dei dubbi madornali e degli interrogativi che dovrebbero essere già risolti. Risolvili, perché il Signore permette a volte anche circostanze avverse per far crescere la tua fede, perché la tua fede è la cosa più preziosa che hai. E allora non davanti alle circostanze difficili non dire: oh, ma perché a me, oh, ma questa cosa non ci voleva, di questa è l'occasione. Piuttosto reagisci dicendo: questa è l'occasione per mettere in esercizio la mia fede, ti dico Dio, tu puoi. E il lebbroso lo dice a Dio, il lebbroso si relaziona a Cristo, non lo pensa, non si limita a pensare queste cose, le dice con la sua bocca. Questo ci parla della preghiera. Qualche giorno fa ho avuto un bellissimo appuntamento con un ragazzo che sta vivendo una sofferenza, ma la cosa che mi ha riempito di gioia è che lui ha detto: io sto riscoprendo il valore, la bellezza della preghiera. La preghiera è qualcosa di straordinario, non è un obbligo che dobbiamo fare per dimostrare di essere cristiani. La preghiera è l'opportunità che Dio ci dà di poter dire a Lui tutto e esercitare anche la fede. Misura le tue parole, ascolta quello che dici in preghiera, perché quando preghi ad alta voce tu stesso puoi analizzare a che livello è la tua preghiera. La preghiera del lebbroso è fantastica, è un uomo di fede. Se tu vuoi, tu puoi, punto, breve, sintetica, come piace a molti uomini la preghiera. Le donne sono più per la preghiera lunga, noi uomini piace la preghiera sintetica. Beh, questo è un uomo ed è sintetico, ma nella sua sintesi dice tutto. Se tu vuoi, tu puoi. E il livello di fede che dimostra con le sue parole è altissimo. E allora misura dov'è la tua fede. Come ti stai rivolgendo a Dio? Ascolta le tue preghiere. Io a volte prego e poi, dopo aver pregato a lungo, dico: ok, Signore, scusami per essermi rivolto a te in questa maniera. So che posso dirti tutto così come lo vivo, così come lo provo, ma dimostro con le mie parole di essere un uomo che manca di fede. Tu puoi ogni cosa, io non dovrei neanche lamentarmi a te in questa maniera. Grazie che ci sei, grazie che mi ascolti, e ora che ho capito che la mia fede è bassa, alimenta la mia fede, perché Gesù è l'autore, il compitore della nostra fede. Amen. E allora il mezzo per sbloccare ed esercitare la fede e la preghiera, perché ci vuole fede per pregare. Se ti senti un pazzo nell'alzare la tua voce udibile in una stanza vuota, beh, quella pazzia si chiama fede, perché sai che quella voce è ascoltata e perché quella voce è esaudita. E quando smetti invece di parlare a Dio a voce udibile e ti limiti al pensiero, forse perché il livello di fede si sta abbassando. E allora io ti voglio incoraggiare questa mattina ad avere fede. Queste sono le parole del lebbroso: se vuoi tu puoi, le parole di Gesù impietositosi, a parte che stese la mano e lo toccò, e qui c'è tutto un discorso da fare, no? Però evito di farlo perché è abbastanza comprensibile, no? Che nessuno toccava i lebbrosi, nessuno toccava un infermo di una malattia contagiosa per non estendere il contagio. Vi ricordate il Covid? Ancora alcuni di noi mi salutano a distanza, no? Com'è che ci salutavamo? Vi ricordavate? Col pugno, com'è che c'è? Col gomito. Ve lo siete già dimenticate? Con la spalla, col piede, con la pianta del piede, per non essere contagiati da nulla. Gesù non dà il pugno al lebbroso. Gesù lo tocca. Perché lui che è pure, che è guarigione, non può essere contagiato da malattia. Lui è perfetto, lui è Dio incarnato. Tocca, e non è la malattia che va a lui, è la guarigione che da lui va al malato. Meraviglioso, no? E poi che cosa dice? Gesù dice: lo voglio, sii purificato. Pensateci un attimo. So che sono parole che abbiamo letto e riletto, però quante volte leggiamo la Bibbia in maniera affrettata e non ci rendiamo conto del peso delle parole. Gesù qua dice: lo voglio, io lo voglio. Lo voglio è un'espressione che non lascia margine di dubbio, è un'espressione importante. Quando è che diciamo lo voglio? Il giorno del matrimonio. Sì, lo voglio. Vedete, è tornata la voce. I bambini, una delle prime cose che imparano a dire è: voglio. Mia figlia: papà, voglio. Papà, voglio. Papà, voglio. Papà, voglio. Per ogni cosa di cui è curiosa, ogni cosa che vuole avere, lo voglio. È un desiderio bramante. Quando tu desideri qualcosa di bramante, in maniera bramante, no? E ti trovi con qualcuno e vedi dici: ma lo voglio. Deve essere mia questa cosa. Un bell'abito, no? Le donne, una macchina per gli uomini. Oh, la voglio, lo voglio. È espressione di un desiderio. È espressione di, non è una cosa marginale. Gesù sta dicendo: questa è la mia volontà per voi. Io voglio la vostra guarigione. Ma tu ci credi a questo? Che Gesù non vuole la nostra malattia? Che Gesù non vuole l'infermità, che è una piaga nella nostra vita terrena, che ci accompagna. Sapere che abbiamo un Dio misericordioso che vuole guarigione per i nostri corpi, e che questa promessa lui la adempirà completamente, come ogni altra promessa, nel momento in cui noi lasceremo questo soggiorno terreno e avremo dei corpi glorificati, perché lui vuole che noi abbiamo dei corpi perfetti. Lui ha creato Adamo ed Eva senza la possibilità di invecchiare, senza la morte, senza la malattia. Questa era la volontà di Dio. Le cose sono cambiate e lo vediamo ogni giorno attorno a noi, e lo vediamo anche nei nostri corpi, che ci ricorda la condizione temporanea nella quale ci troviamo. E sì, i nostri corpi non possono essere fermati dall'invecchiare. E l'apostolo Paolo in 2 Corinzi al capitolo 5 dice: questa tenda si va disfacendo. Gli anziani annuiscono sentendo queste parole. E così si va di sve. Nessuno di noi può bloccare l'essere anziani e il vivere un corpo che è più debole, è più soggetto a determinate malattie. Però sapere che Dio ha un piano stabilito per noi, dandoci dei corpi glorificati, è qualcosa che ci deve incoraggiare. Ci deve incoraggiare a scoprire qual è la volontà di Dio per l'eternità, ma anche a chiedere per questa vita terrena, perché lui ci dà la possibilità di pregustare, anticipare un po' i tempi e pregustare su questa terra, in questa vita terrena, quello che noi otterremo per l'eternità. allora no, non puoi chiedere un corpo glorificato, okay? Non ti sto invitando a chiedere a Dio un corpo glorificato, un corpo perfetto che non invecchia, non lo puoi chiedere, però puoi chiedere nei tuoi acciacchi, qualsiasi sia la tua malattia, che sia un'influenza o sia un cancro allo stato terminale, tu puoi chiedere: Signore, puoi guarirmi, vuoi guarirmi? Vuoi intervenire in questo momento della mia storia, perché io credo che tu guarisci. Ed è per questo che ci sono i punti di preghiera in mezzo a noi. Per questo ci viene notizia di Pasquale Paccione, che ha bisogno di preghiera adesso, in questa situazione di nuovo di malattia. Possiamo pregare per lui e così pregare per Antonella, che abbiamo saputo ha avuto un'operazione, grazie a Dio. I medici non hanno trovato un cancro che si andava espandendo, ma hanno potuto debellare, e preghiamo guarigione completa per lui. È per questo che per più di un anno abbiamo pregato per Elias, e probabilmente la settimana prossima Save Redenza ci daranno testimonianza della guarigione completa di Elias. Ma sappiamo che Dio interviene nel nostro mezzo, e noi dobbiamo essere un popolo che dice: tu puoi. E noi crediamo, e perché crediamo chiediamo e non ci fermiamo. Non fare delle tue conoscenze teologiche un limite per vivere quella fede da piccolo fanciullo, da bambino che chiede. Perché vedete, sapere che un giorno avremo il corpo glorificato e che tutte le promesse che Dio ci ha dato saranno adempiute perfettamente quando Lui tornerà, è una spada a doppio taglio, perché da una parte ci dà il conforto di sapere: beh, questa è la verità, Lui mantiene sempre le promesse, e se non lo fa oggi e non lo farà domani, lo farà quando tornerà. Però può essere una spada a doppio taglio, perché smetti di lottare, smetti di credere, smetti di imporre mani, smetti di intercedere, smetti di intervenire e chiedere a Dio anche per un novantenne guarigione nel corpo, perché Dio può guarire e vuole guarire nel nostro mezzo ancora oggi. Perché? Beh, l'ha fatto per manifestare la sua gloria, la sua fama si è espansa, l'abbiamo letto, al punto tale che lui si doveva andare a nascondere, si doveva chiudere in casa, e dovunque andava era rincorso da folle. Perché? Perché la guarigione manifesta la gloria di Dio e deve manifestare la gloria di Dio. E il diavolo usa pure questo per invertire le cose, glorificare l'uomo, e quindi poi c'è questa inversione e c'è idolatria quando poi c'è un uomo che si muove nella guarigione, e gli uomini fanno l'errore di attribuire la gloria all'uomo. E questa è una delle prime cose che i discepoli condannano in Gerusalemme, quando guariscono lo zoppo alla porta del tempio e le persone li vogliono glorificare. Loro dice: non è a noi la gloria, ma è per la gloria di Dio. Allora la guarigione fisica serve per glorificare Dio ed espandere l'Evangelo. E quindi, se siamo chiamati come siamo chiamati, suoi missionari, suoi ambasciatori, suoi rappresentanti su questa terra, non possiamo tirarci indietro dall'agire, dall'operare in fede per la nostra guarigione, ancor di più per la guarigione degli altri. È per questo che la missione diventa efficace. Io ricordo qualche anno fa, forse già passato qualche anno fa, che Gianluca raccontava la storia di missionari che hanno avuto l'occasione di pregare per infermi, hanno visto la guarigione, quella guarigione ha aperto le porte dei cuori di persone così irrigidite nella loro convinzione, nelle loro convinzioni, nella loro religiosità. E allora la guarigione è un mezzo di cui Dio si serve ancora oggi, ma non per chiuderci noi stessi e cantare e suonare per noi stessi, ma quale mezzo di evangelizzazione. Voi lo vedete in tutti gli Vangeli: ogni qualvolta Gesù guarisce, la gloria si manifesta, perché Lui ha la possibilità di annunciare il regno dei cieli attraverso le guarigioni, e manda i suoi discepoli a due a scacciare demoni, a guarire i malati, per annunciare il fatto che il regno è venuto è su questa terra, il regno dei cieli è venuto con Cristo Gesù. E noi siamo rappresentanti del regno e in noi il regno avanza attraverso il ministero anche della guarigione. E quindi io non voglio dilungarmi oltremodo, però voglio rileggere il verso 40 con voi e spero che possiate cogliere quello che il Signore vuole farci cogliere, vuole farti cogliere personalmente. Venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù impietositosi stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Amen. Gesù compie miracoli, lui è il guaritore. Oggi abbiamo l'opportunità di vivere la cena del Signore. E non so se vi ricordate, qualche mese fa Vito Marinelli ha portato un bellissimo messaggio sulla guarigione. Purtroppo vorrei potervi dire andate su YouTube, ma non si trova, abbiamo avuto dei problemi tecnici. Però in quell'occasione ha citato proprio Isaia, che per le sue lividure che noi siamo stati guariti. E quindi stamattina nel celebrare la cena possiamo ricordare che lui è morto per darci l'accesso alla vita eterna, ma per compiere ogni sua promessa in noi e farci pregustare le promesse eterne qui su questa terra, tra le quali la guarigione dei nostri corpi. E allora come vogliamo celebrare questa cena questa mattina? Beh, certamente ognuno potrà prendere il pane, prendere il vino, vivere un tempo di preghiera. Però se c'è qualcuno che desidera avere preghiera per guarigione nel proprio corpo, allora io e anche altri ministri, voglio invitare anche i ministri che sono presenti, che vogliono dare una mano in questo, imporremo le mani per chiedere guarigione nei corpi affinché Dio possa operare e guarire questa mattina. Amen. Amen. È incoraggiante la parola di Dio, è vero? È potente e Lui ti vede. Se hai bisogno anche preghiera per qualsiasi altra cosa, forse stai vivendo una stagione difficile, vieni avanti, preghiamo insieme e il Signore opererà. Crediamo in questo, amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Bellissimo, dovrei sempre predicare senza la voce, perché ho un'attenzione straordinaria da parte vostra. Se ho la voce piena vi distraete, parlate fra di voi, non mi ascoltate, no, scherzo. Però tutta la vostra attenzione, bellissimo. Ma credo che l'attenzione è proprio sulla parola di Dio. Stiamo riflettendo, no? Stiamo pensando. E io credo che in questo pensare Dio sta operando, facendo crescere la nostra fede. E io vorrei pregare per tutti noi, oltre che per la cena, vorrei pregare che possiamo essere una chiesa piena di fede, che esce fuori da questo locale e con fede impone le proprie mani sui malati per dichiarare guarigione e glorificare Dio attraverso la guarigione dei corpi. Vogliamo pregare, Padre, grazie. Grazie per la chiesa che siamo e grazie perché ci dai la Tua parola e noi la possiamo leggere, cibarci di essa e la nostra fede cresce. Ed è proprio così come tu dici che la fede viene dall'udire la parola tua, Signore Gesù. E noi siamo qui, udiamo la tua parola e quello che tu hai fatto 2000 anni fa e sappiamo in questo momento che noi siamo proprio dalla tua parte perché crediamo che quanto è scritto è accaduto e che tu hai guarito quel lebbroso e noi crediamo che come lo hai fatto 2000 anni fa tu lo fai ancora oggi. E io voglio pregare per tutti noi, per la nostra Chiesa, che tu possa aumentare il nostro livello di fede, che si possa abbassare la voce del dubbio, si possano spegnere gli interrogativi che non servono a nulla e che in noi possa crescere invece quella fede sincera nel credere in un Dio che può ogni cosa e che vuole operare e manifestare la sua gloria anche attraverso la guarigione dei corpi. Io prego, Padre, di aumentare la nostra fede, di farci crescere non solo nel nostro cuore ma anche nella nostra azione, che noi possiamo muoverci e agire e imporre le mani e pregare, pregare sapendo che tu ascolti le preghiere e che tu interverrai per i nostri cari che sono ora in condizione di malattia, per guarirli, ma vorrai intervenire anche per tutte le persone, Padre, che incroceremo e che saranno nel nostro percorso e che ci darai grazia di poter pregare e intervenire per la loro guarigione. Sia fatta la tua volontà, e sappiamo oggi, Padre, che la tua volontà è la guarigione per noi. Alleluia. Voglio pregare per questo pane e per questo vino. Con rendimento di grazia vogliamo onorarti, Gesù, per quello che tu hai fatto per noi. Grazie per essere morto, per aver sacrificato il tuo corpo, per aver sofferto per la nostra salvezza. E nel mangiare questo pane, nel bere questo vino, io prego, Padre, che tu possa dare a noi una rinnovata rivelazione del tuo amore, del tuo perdono per le nostre vite. Grazie, Gesù. Benedico il pane e il vino nel tuo nome. Amen. Amen. Se sei battezzato da adulto, allora puoi partecipare alla cena. Se non lo sei, questo può essere un tempo di preghiera per te, per decidere anche di arrendere la tua vita a Gesù. Possiamo prendere il pane, possiamo prendere il vino, ma possiamo venire anche qui avanti per ricevere preghiera.